Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Da qualche tempo a questa parte lo sviluppo delle rinnovabili si è scontrato, talvolta a ragione, talvolta a torto, con le esigenze di tutela del paesaggio. D'altra parte, sia la produzione di energia che la protezione del paesaggio sono interessi strategici. E al di là, diciamo, della sindrome NIMBY che un po' affligge il nostro paese, NIMBY cioè non nel mio cortile, è certamente di comune interesse, se esistono, trovare delle alternative che riescono a coniugare queste due esigenze. Ebbene, pare proprio che queste alternative possano venire sia dal punto di vista appunto paesaggistico che anche economico dall'integrazione delle rinnovabili con le infrastrutture, insomma infrastrutture che diventano luoghi di produzione dell'energia. Ne parliamo con Federico Frattini, ricercatore dell'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, che tra l'altro ormai è una vecchia conoscenza di Mr. Kilowatt. Buonasera Frattini. Buonasera a lei e chi ci ascolta. Allora Frattini, pare che una delle accoppiate migliori in assoluto sia autostrade e fotovoltaico. Io direi che possiamo partire da qui. Sì, assolutamente sì. C'è sempre maggiore interesse e attenzione da parte degli operatori di questo mercato verso la possibilità di integrare moduli e quindi in generale sistemi fotovoltaici nelle infrastrutture viarie, in particolare autostradali, su diverse componenti dell'infrastruttura autostradale stessa. Uno degli ambiti di maggiore così interesse e potenzialità anche nel nostro paese è la possibilità di integrare moduli fotovoltaici nelle barriere fonoassorbenti che circondano le nostre autostrade. Soprattutto quando passano in vicinanza dei centri abitati, ce ne sono molte di queste specie di... Assolutamente sì. E oltre alle autostrade anche ovviamente le infrastrutture ferroviarie sono un campo in cui ovviamente le barriere fonoassorbenti hanno un ruolo molto importante e sulle quali l'applicazione di moduli e sistemi fotovoltaici può rappresentare un sicuro investimento di interesse. Ecco, tra l'altro ci sono in programma installazioni di barriere fonoassorbenti molto, come dire, pesanti anche. Assolutamente sì, ci sono dei progetti da parte delle società che gestiscono appunto la nostra rete autostradale e la rete ferroviaria che nei prossimi anni dovrebbero portare alla realizzazione di una quantità significativa di metri quadri di barriere fonoassorbenti. Noi abbiamo fatto una stima, se si ipotizzasse di coprire solo il 10% delle barriere antirumore che sono previste da qua ai prossimi anni con pannelli fotovoltaici tradizionali, si arriverebbe ad installare qualcosa come 800-900 megawatt di potenza di picco, che è una cifra significativa. Assolutamente significativa, certo, certo. Ma ci sono già degli esempi concreti di installazioni, potremmo definirle fonovoltaiche? Sì, ci sono alcuni esempi già oggi di particolare interesse, in particolare sulla A22, in prossimità del comune di Marano a Trento e di Oppeano a Verona, una società italiana ha realizzato due importanti impianti fotovoltaici integrati a queste barriere antirumore, il primo che ha una potenza di picco di oltre 730 kW e il secondo oltre 800, i quali rispettivamente producono energia elettrica che è in grado di soddisfare mediamente il fabbisogno di il primo 90 nuclei familiari e il secondo addirittura 100-110. Quindi si tratta di impianti di una dimensione significativa. L'idea è che si possa un po' punteggiare le autostrade laddove, per esempio, l'orientamento è favorevole al sole, si possa punteggiare le autostrade con questi impianti, che sono impianti di media dimensione, che darebbero un bel contributo. Ecco, oltre alle barriere fonoassorbenti ci sono altre, come dire, applicazioni sulle infrastrutture? Ma sì, guardi, ad esempio ci sono dei progetti già in atto anche in Italia di ricoprire le tettoie dei piazzali di parcheggio lungo le autostrade con dei sistemi fotovoltaici, per non parlare poi di applicazioni più futuribili, diciamo così, che però in alcuni paesi hanno già trovato dei progetti concreti, come ad esempio quello delle cosiddette solar roadways. Quindi autostrade del sole, che bel nome, noi ne abbiamo già una di autostrada del sole, magari lo diventerà anche di fatto. Prego, prego. Si tratta sostanzialmente di provare almeno a sostituire l'asfalto con un sistema di pannelli fotovoltaici coibentati ed ultra resistenti. Si tratta ovviamente di un'applicazione che ha dei notevoli livelli di complessità tecnica per i problemi strutturali che questi pannelli fotovoltaici devono essere in grado di risolvere, ma si stima che ogni chilometro coperto con questo nuovo manto stradale, ovviamente di un'autostrada a diverse corsie, possa essere in grado di generare energia elettrica per decine se non centinaia di famiglie come potenziale fabbisogno in grado di soddisfare. Certo, vabbè, mi viene in mente che in Italia il giorno dopo probabilmente dovrebbero spaccare per mettere giù qualche tubo. Comunque, vabbè, in America sono più efficienti queste cose. Ecco, ma queste idee, insomma, portano ad aumentare i costi delle rinnovabili, che insomma, non si può nascondere, sono già abbastanza alti, o invece ci può essere anche un vantaggio di tipo economico, al contrario? Guardi, in realtà con il maturare, diciamo così, delle tecnologie di produzione da fonti rinnovabili, il costo della componente chiave, per capirci, in un impianto fotovoltaico, il modulo, si è via via ridotto. Oggi un modulo fotovoltaico pesa intorno al 30-40, massimo 45% del costo finale dell'impianto. Proporzionalmente hanno assunto un peso superiore le componenti cosiddette addizionali, quali ad esempio le strutture di sostegno, i cavi, i componenti elettrici. Installare impianti di produzione di energia rinnovabile come fotovoltaico sulle infrastrutture esistenti significa in realtà evitare di dover sostenere alcuni di questi costi certo, che possono pesare su impianti di alcune centinaia di kilowatt come quelli di cui abbiamo parlato prima, anche il 15 o il 20% sull'investimento iniziale. E poi insomma si risparmia territorio, si evita, come dire, di far sì che produzione di energia e agricoltura per esempio confliggano. Grazie Federico Frattini. Grazie a lei. Buonasera anche a voi tutti ascoltatori, l'appuntamento è per domani, sempre lungo le autostrade, ma questa volta col vento, anzi via col vento. Buona serata.